Pirati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Franco Piantini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione e non mi ricordo più come si chiama, Roberto Scaltritti in regia. Allora c'è Pardo, sei arrivato, fresco come una rosa. C'è Giovanni Capuano. Sì. Allora adesso tentiamo un esperimento mai provato prima nella storia della, radiofonia mondiale. Perché devi dirlo, che doveva arrivare un quarto d'ora fa. Allora, e invece allora, facciamo adesso tutto live. Facciamo il promo. Facciamo live. Un promo in diretta per il programma della domenica dalle 17 alle 19. Ci siamo tutti e tre questa simpatica combricola. Bello. Allora, via con il promo in diretta. Vai. Chi comincia? Comincio io. Tutte le domeniche, dopo la fine della partita, arriviamo noi. No, non va bene. Rifacciamo, rifallo. Ma questo è anche promo, capito? Cioè, sì, se uno fa la sporcatura e dice non va bene, già è promo. Ah, allora, tutte le domeniche alle 17, subito dopo la fine delle partite, più ritmo. Noi. Non va bene. Più ritmo. Giovanni Capuano non va bene. Dalle 17 alle 19 arriviamo noi, dopo la fine delle partite. Troppo autoritario. Arriviamo noi, diamo i risultati, le voci, abbiamo gli ospiti, sentiamo gli amici da casa. Tutti convocati, tutte le domeniche dalle 17 alle 19, disastro. Sulla tua radio preferita. Disastro vai col mondiale. Brano. Disastro mondiale, ragazzi, servirebbe un miracolo. Miracolo a Milano. Dai, lo facciamo subito. No, il dai. Miracolo. Lo facciamo subito, dai, l'ultima volta, perché ci prendiamo l'ultimo minuto prima del traffico. Vai. Tutte le domeniche, subito dopo la fine delle partite, cosa succede? Alle 17. C'è tutti convocati. Arriviamo noi perché abbiamo. Ma posso venire anch'io? Certo che devi puoi venire anche tu. Tutti convocati weekend, ci siamo tutti e tre, ci sono le voci, le interviste, il pre-partita della sfida delle 20:45. Magari ci arrabbiamo, ma sentiamo anche gli amici da casa. Allora vengo, tutte le domeniche, vengo qui. E gli altri sport? Gli altri sport non ci sono, non esiste. Ma come? No, c'è l'Ippica. È vero, l'Ippica. Mi sono dimenticato. Vabbè dai, già va un po' meglio. Vai. No, ma dicevo che comunque è più difficile. Non so se è più difficile fare uno spot in diretta. Sì. Oppure portare la gente a San Siro domani sera a vedere Trofeo Berlusconi fuori stagione con il San Lorenzo de Almagro. La squadra del Papa. Sì, la squadra del Papa. È dura domani, sicuramente. La scelta, fra l'altro, è stata obbligata. Insomma, in serata di Champions League. Ci sarà anche la partita trasmessa anche sul canale capire. 5 dopo Bayern Roma. È autunno. Comincia a fare freschetto. Sì. Trofeo Berlusconi fuori stagione. Sì. Il San Lorenzo. Sì. Aggiungerei che la sconfitta col Palermo, diciamo che non ha aumentato l'entusiasmo. Col Palermo. Record negativo totale mondiale di presenze allo stadio per vedere Milan, ma anche l'Inter. Certo. Cioè, cosa si può chiedere di meno? Sicuramente, insomma, diciamo il marketing. Ma questo è il promo del Trofeo Berlusconi. Esatto. Siamo bravi a fare i promo, Non so se a questo punto ci saranno meno spettatori per tutti allora, i convocati. Facciamo o così: 800 24 00 24, dateci una mano voi perché di qui non ne usciamo. No, ma comunque provando a fare i seri. È chiaro ed è su tutti. Sì, è nell'aria di Milano questa crisi senza confini. Cosa avete detto ieri sera a Tiki Taka, Pardo? Di tutto di più. Sulla crisi di Milano senza confini direi che io penso rispetto a un anno fa che un filo più di prospettiva ci sia. È chiaro che Milano non è più quella di una volta, cioè la forza delle società che c'era fino a qualche anno fa rimane quella dell'anno scorso, quando già parlavamo della Milano decadente calcisticamente parlando. Però forse quest'anno un filo più di prospettiva c'è, nel senso che comunque quantomeno il travaglio è iniziato, no? Cioè sono successe delle cose. Un anno fa il Milan aveva il problema della coabitazione fra Barbara Berlusconi e Galliani. Di questi tempi, tra l'altro, curiosamente. Di questi tempi aveva un allenatore nel quale non si credeva più, quantomeno Berlusconi non credeva più da tempo, e poi cioè, era come l'Inter oggi, praticamente, che ha il problema di coabitazione tra Toire e Moratti, sì. E ha quell'allenatore lì che sta sulle balle come ma allora l'ha stava, superato. Questo anche sull'Inter, secondo me, siamo più avanti. Poi mi rendo conto che oggi vedere la luce sia particolarmente complicato e particolarmente difficile, anche perché ci sono dei limiti tecnici di queste due squadre evidenti. Però secondo me, insomma, un certo tipo di percorso si è iniziato, i frutti non si vedono ancora sicuramente. Mi rendo conto che è più facile farsi prendere dal risultato e dire che va tutto male, fa tutto schifo. Secondo me Inzaghi sta provando a fare delle cose e Mazzarri con il vento contro aveva provato a fare delle cose. Adesso in questo momento c'è proprio l'onda che gli arriva addosso pesantissima e nulla si può escludere. Secondo me sai che non esce. Forse non esce più. È solo una sensazione e sarebbe sbagliato, perché vorrebbe dire perdere tempo, perdere denaro, eccetera, eccetera. Però ho la sensazione che da questo da questa china non riesca più ad uscire Mazzari. Beh, Parma non è un dettaglio, aver perso con l'ultima in classifica, ex ultima in classifica, che aveva perso 6 gare consecutivamente, aver perso in quel modo lì senza praticamente essere mai stati pericolosi, non è un dettaglio, non è una sconfitta come tutte le altre, quindi sicuramente questo effetto ci può essere. Detto questo, ripeto, hai sentito Cassano sull'argomento? No, non l'ho sentito gli ultimi giorni, no? Ho sentito prima della partita, dopo. Prima della partita, dopo no. Vabbè. Allora, traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qui. Gli spettatori, no? Un po' freddini rispetto anche all'andamento di questo inizio di stagione nel Milan. Ce n'erano pochi. Pochi, eh? Ce n'erano pochi. È un trend che purtroppo va avanti da un pochettino di tempo. Lo dicevamo che Pippo aveva fatto appello appunto per questo, ma magari lui sperava attraverso una prestazione di conquistare un pochettino di più. Non... Oggi purtroppo c'è stato un passo indietro importante. Tutti convocati. Guardo, se continua ad aumentare il numero di ospiti ti tocca comprare 3 divani nuovi. C'era l'attore che rischiava di cadere ad ogni movimento di Cruciani. Sì, ieri devo dire che c'era overbooking. Ieri c'era overbooking, sì. Overbooking a Tiki Taka. Overbooking, c'è stata anche la defezione verso tardo pomeriggio di Zamparini, che aveva un altro impegno, ma ci doveva essere anche lui. E speriamo di recuperarlo già lunedì prossimo. Sì. No, ma è il momento di questi presidenti da cinema, no? Lotito, Ferrero, Prezioso, ma Zamparini. Ma è sempre il momento, posso dire, un po' di cinema, un po' di sopra le righe, secondo me va sempre bene nel calcio. Poi è ovvio che ci deve essere anche della sostanza dietro, insomma. Il giudizio dei poster, come dicono noi poster, dei posters, su Ferrero lo daremo ovviamente fra qualche anno, quando... E non sarà legato alle battute. Le battute rimarranno ovviamente dell'immaginario, come rimanevano le battute di Rozzi e Anconetani, ma quelli erano presidenti mitici, perché comunque erano presidenti di provincia che sui quali potevi contare, che magari avevano dei pochi mezzi, ma quei mezzi venivano completamente offerti alla squadra. Quindi al di là delle battute e della teatralità, poi i presidenti lì si sono fatti amare. E quello che auguro ovviamente all'attuale presidente della Samp, Zamparini, con i suoi pro e i suoi contro. Zamparini è disperato, insomma, dopo ieri, no? Dopo l'altro ieri, adesso Iachini come lo caccia? Sì. Una situazione drammatica. Saluto Marco Marsullo. Grandissimo Palermo. Ciao Marco Marsullo. Ciao. Buongiorno. Come va? Come va? Stai bene? Io sto bene, sono uscito da un raffreddore, io sto benissimo. Tu stai sempre a scrivere, quanti libri hai scritto ultimamente? E mo ne è uscito un altro giugno, sempre con Einaudi, il titolo è troppo lungo, non me lo posso dire. No, l'ho letto, l'ho letto. Dimmelo un po'. L'audace colpo dei 4 di Rete Maria che sfuggirono alle miserabili Monaco. È una roba straordinaria, siamo al top, siamo al top. Lo spot per il trofeo Berlusconi, scrive Paolo da Parato, potrebbe essere: domani sera venite tutti allo stadio che per anni andremo solo al cinema. Oppure il segretario della Lega Nord Salvini, che Facebook è andato giù leggerissimo: 11 pagliacci indegni della maglia rossonera, caro Marco Marsiglio. Secessione, ha detto. Secessione. Via, fuori dalla... Ma forse un po' troppo duro, nel senso che io sono d'accordo con Pardo. Il progetto con Inzaghi c'è. La squadra è stata preparata bene, stranamente, viste le ultime preparazioni degli ultimi campionati del Milan. Ora è tutto da vedere se è un'onda emotiva, che quindi il Milan è partito così bene perché Inzaghi è un motivatore, è forse un vero special one Inzaghi, o se i limiti tecnici di questo Milan verranno fuori alla fine. Io credo che il problema, come al solito, sia che ormai sul mercato non si può intervenire come ci si aspetti da certe società. Quindi è evidente che in difesa il Milan ha un giocatore che è lievemente fuori dalla media, che è abbastanza mediocre, che è Alex, e gli altri sono tutti abbastanza dei giocatori che più o meno fanno sempre la frittata ogni tanto. Zapata, diciamo, è stato un match winner. Segnalo il tweet del dottor Marsullo l'altro giorno: Zapata, io non ho idea di cosa ti passi per la testa in 3 minuti. Match winner della panchina. Zapata, io non gli voglio male, però Zapata ha questa abilità. Pensa se gli volevi bene. tutta sua di cambiare le partite all'improvviso. Poi lui ha sempre questa faccia un po' spaesata, non sa bene dove si trova. Sarà perché è così. Sì, Zapata è sempre quell'ottimo difensore che abbiamo visto al mondiale con la Colombia, perché il poi grande dell'Udinese, poi sì per carità, però un giocatore che secondo me in questo Milan ci può stare. Non è, poi l'altra sera è andato in barca con Dybala ed è successo quello che è successo. Secondo me i problemi sono 40 metri avanti, quando tu hai Torres e Sharawi, che sono due giocatori che dovrebbero essere centrali nel tuo progetto per diverse ragioni, e hanno fatto un gol in due in 10 giornate, credo ci sia poco da dire. Certo, io su Torres avevo delle perplessità, perché Torres è un giocatore che non è decisivo, questo è il problema di questo calciatore, secondo me. Un calciatore che entra bene in dei relativamente bene in dei progetti che sono abbastanza avviati. Torres mi sembra sia venuto un po' a, diciamo, a fare la pensione qui al Milan, non Pazzini, avrei puntato su altri calciatori. Sei d'accordo con la signora Slitti? Io che è la moglie? Puntato su di lui. Avrei puntato su di lui, perché è un giocatore con cattiveria in aria, uno che ha fame, anche se secondo me questo Milan non ha bisogno di... Io giocherei col falso 9, col falso Menez, perché Menez non può giocare sulla... secondo me non è un esterno, dovrebbe giocare centrale, anche perché... lui fa sempre quello che gli dice un po' la testa, perché c'è questa cosa meravigliosa. C'era un Milan, quello di prima, delle prime 8 partite, che aveva il miglior attacco, era quasi terzo in classifica. E poi si critica l'altro Milan, che però è il Milan delle ultime due, quello che gioca con Torres col centravanti. Sì, ma ragazzi, mettetevi in testa che Berlusconi aveva bisogno di un manifesto da appiccicare sulla squadra. Questo manifesto è chiaramente Fernando Torres. L'ha preso, deve giocare. Non stiamo discutendo il valore assoluto dei giocatori. Posso dire, secondo me, oltre a questa valutazione, diciamo, di marketing, ce n'è una più tattica. Il margine di crescita del Milan è la quantità dei gol degli attaccanti e la possibilità di vincere facilmente le partite con le piccole, poi sono la maggioranza del campionato, no? E per fare questo un Torres decente servirebbe, e come. Quindi io non credo che sia soltanto un fatto, diciamo così, di album delle figurine. Credo che ci sia una valutazione tecnico-tattica, come direbbe Cappello. Quando hai visto l'ultimo Torres decente, Pier? No, su questo sono d'accordo con te. Torres ha fatto quel colpo di testa a Empoli eccezionale, l'altro giorno pure ha fatto un colpo di... intravedi... Quindi siamo a due colpi di testa ma il voto da oggi è 4, non ci sono dubbi, non ti sto dicendo, e non mi aspettavo neanche molto. L'ho comprato a Fantacalcio soltanto perché abbiamo un Fantacalcio talmente complicato che ero l'unico che aveva i soldi, ho comprato attaccante, ho preso Torres, ma non... Come, non male che l'hai preso Bernardeschi, No, Bernardeschi era il mercato di riparazione, poverino, non sono riuscito a prenderlo. Poverino, Povero, 3 mesi fuori anche lui. Lo so, più di 3 mesi fuori anche lui. Fiorentina, veramente Oscar mondiale totale della sfiga. Grande in bocca al lupo. No, e quindi, però, solo ti dico: non è che ci credessi molto prima e ci credo ancora meno oggi. Però io dico pure che se la cartina al tornasole di come andrà il Milan da qui fino alla fine dell'anno, secondo me il margine di miglioramento e di crescita è quello lì. Cioè, se Torres esplode, se Pazzini torna a essere un attaccante schierato e che fa delle cose, il Milan può crescere. Altrimenti, io non so se soltanto col falso 9, anche perché poi c'è anche il Shaarawy, che è un altro fattore di un altro punto interrogativo. Quindi c'è tutta una serie di domande aperte. Però sono d'accordo con Marzullo, che era d'accordo con me, quindi voglio dire, tutto torna. Secondo me un'idea quest'anno rispetto all'anno scorso c'è. Ci vai al derby il 23 o no? Io gli ultimi due derby sono stato allo stadio, ho perso entrambi 1-0. Io vengo da Napoli, quindi il ritorno dopo la sconfitta è estremamente complicato per me. Sì. Magari questo derby passo, lo guardo su TV. Questo derby starà sotto i 60.000, credo. Sarà un record storico per Milano. Tutta la letteratura dei 60.000 a San Siro a vedere Milan Cavese in Serie B. Sì, e questa volta sono messi insieme Inter e Milan e si arriva ai 60.000. Hai sentito il brano? Sì. No, comunque, cioè, io voglio farvi sentire quella che è la ricetta di Mino Raiola. Comincio a pensarla anch'io come lui. Sentiamo. Su come risolvere i problemi del Milan, dell'Inter. Tutte e due. Raiola. Prima tavola stai lanciando una provocazione. Ma non è una provocazione, è un'idea che si vedi le grandi società nel mondo, le due grandi società dovrebbero andare insieme, no? Per battere i costi e per avere magari gli stessi obiettivi. Io non capisco, per esempio, perché l'Inter e il Milan non vanno insieme, hanno tutte e due spese centinaia di milioni, sono tutte e due presidenti che hanno al di là grande società, e io penso che invece di cercare di vendere le società all'estero, di fare una grande società a Milano, una piccola città, 1.200.000 persone, i tifosi dovevano capire che solo così possiamo combattere la concorrenza di Barcellona, di Real Madrid, di Manchester City. Facendolo insieme, io credo che si può fare una grande società. Eccala. Allora, eccala. Se metti insieme i fatturati di Inter e Milan, oggi sarebbero il terzo club d'Europa dietro Barcellona e Real Madrid. Anzi, ragazzi, Real Madrid non, e Barcellona. Non si può fa. Ma Mino, grazie dell'idea, le faremo sapere. Non si può fare. Dai, su, non il set. Se al calcio l'aveva gli proposto anche Paolillo. Sì, ma si parlò, ricordate, adesso si parla molto di Genova. Ci fu la proposta tanti anni fa di una fusione Genoa-Samp. Ma è, dire questa cosa tecnicamente è accettabile, e anzi, addirittura quasi visionario. Ma la verità è che si prescinde dall'aspetto della passione, che è l'unico motore del calcio. Cioè, ci sono dei milanisti che non ci andrebbero più, ma non ci andrebbe più nessuno. Ecco. Marco Marsullo, tu ci andresti a vedere la cosa? No, non ci andrei, ma perché sono assolutamente d'accordo con Pardo, stranamente, perché per una volta sono d'accordo con Pardo. La seconda volta, no, è vero, c'è un aspetto di passione che da cui non si può prescindere, non si potrebbe mai fare un ibrido del genere. Poi siamo cugini, che fai? Due cugini messi insieme, non si può fare. No, quindi, teniamoci Milan e Inter, anche se non c'è cosa più divina, dicevamo. Bene, sì, ma Marsullo giustamente si tiene il cappellino con scritto io non ho cugini. L'Inter, sono molto sereno sull'Inter, non è una delle società verso cui è molto perché sicuro. È napoletano Marsullo, sì, io non vivo molto. I derby cittadini vengono vissuti da chi vive in città. Esatto. Gli juventini di Torino sono giustamente dal loro punto di vista legittimamente gufanti quando gioca il Toro. Gli juventini di Tortona o di Savona o di Catanzaro del Torino non gli avevo fregato di meno, insomma, no? Credo sia abbastanza normale. Ecco. Ma oggi non fate nessuna gufata per la Juve, ci manca per voi anti-Juve, scrive Giorgio. Adesso le facciamo. Sì, adesso facciamo gufate. Noi gufiamo a comando, perché le gufiamo. Marco Marsullo gufa la Juve, dai. Ah no, io gufo il San Lorenzo perché sarà una grande partita, quindi devo concentrarmi su questo. Tra l'altro il San Lorenzo è la mia squadra argentina, quindi io voglio un sacco di bene al San Lorenzo. Poi ci gioca Yepes. Sì, sarà una specie di partita d'addio di Yepes. E poi è la squadra del Papa. Io veramente ho il terrore di quello che ci sarà intorno a questa partita domani sera. Perché verrà trasmessa da Canale 5 in seconda serata. Sì, a mezzanotte, no? dopo il post partita di Bayern. Beh, che è una buona idea, no? Ma ci sta. Certamente. Sì. Torres non è il Nino, è il nonno. Ci dice Ross, fa abbastanza ridere. Ditemi che è vero che Pazzini verrà a Bologna. Ricordo male, il Milan ha finito il suo ciclo con l'uscita di Nesta, la gestione Allegri poi l'ha smantellato. Ma Montolivo, che fine ha fatto, è l'unico che può un po' pensare calcio. Torna a gennaio, Marsullo, dici qualcosa di Montolivo. Io non lo sento da un po' su Montolivo, manco su WhatsApp. A gennaio, manda un messaggino, facci sapere cosa dice. Ci starebbe bene un Montolivo in questa squadra, diciamo, perché ci servirebbe un pochino. Anche se a centrocampo sono abbastanza soddisfatto. Soddisfatto di che? Non c'è niente. Ma ci stanno mettendo. Sono mediani, Marco. Questo è il problema. Sono una compagnia di mediani. Infatti, se ci mettiamo un Montolivo, diciamo che diventa tutto molto più bello. Sentito il brano? Hai un problema con De Jong? Io lo amo, De Jong, perché è un grandissimo calciatore. Lo ami. Interrai sempre De Jong lì. Ma De Jong è il Milan in questo momento, se togliamo De Jong finisce crollo. De Jong è un buonissimo calciatore, un po' sottovalutato. Ma questi sono i tempi, purtroppo. Un po' sottovalutato. Però posso dirti il fatto che De Jong sia il centrocampo del Milan, che per me è un grandissimo calciatore, che è un grandissimo, forse è un po', però è un ottimo calciatore, grande esperienza, grande personalità, tanti attributi, insomma. L'idea che lui sia il centrocampo del Milan un po' racconta, secondo me, la difficoltà. Non mi ricordo se qualcuno che ha scritto ieri pensa se il Milan avesse Hernanes e Kovacic. Sarebbe probabilmente una squadra da terzo posto. Cioè, chi è più forte, l'Inter o il Milan, secondo voi, potenzialmente? Credo l'Inter che adesso paga, secondo me, problemi di condizione e di infortuni e ha dei margini di crescita. Il Milan non lo so. Ci devo pensare. Vabbè, pensaci, c'è la borsa. Grazie Marco Marsullo. Grazie. Buon Marsullone. Borsa. Notte alta, sono sveglio. Marsullo. Adesso in questo momento è troppo difficile. Io penso solo una cosa, lavorare tanto in questa settimana, anche per vincere ancora. Come dico prima, bisogna credere ancora in nostra abilità per vincere una partita, anche per la prossima partita contro Sampdoria, perché non è facile di là, come per giocare di là. Convocati. ci vogliono 11 Mazzarri in campo. Quindi con 11 Mazzarri noi vinciamo tutte le partite 3-0, ve lo assicuro io. Fino a giugno 2015, quindi questo è l'allenatore e questo, certo, resta. Assolutamente, lo puoi garantire. L'ho detto io, l'ha detto il presidente. Però vorrei sapere se in questo momento voi metteste alla testa dell'Inter Superman. O Mourinho, sarebbe sicuramente. O quella squadra, cosa fanno? Cosa vorrei sapere questo. Bravo. Si può iniziare un dibattito su un povero, adesso, perché adesso non vorrei essere querelato, sì, da questo signore, da questo, no, insomma, cretino, diciamo, no, la giusta. No, no, no, no, no. Mi dissocio subito. Ma aspetta, per le querele Radio 24, la zanzara, Viale Monterosa. Aspetta, che ci dico c'è, poi ci lavoro anche. Che ci dico c'è, Viale Monterosa, no, lo stadio. Ma come cretino? Parma, lo stai a Parma, ritagliando prima a casa un pezzo di cartone. È povero. Così, e scrive col pennarello viva Mancini. E guarda che impatto mediatico. E si fa un dibattito su questo signore, su questo imbecille, ma su questo imbecille, ma che va allo stadio con un coso. Mi dissocio completamente, non ti assume tutta quanta la responsabilità, anzi, aiuteremo il signore, identifichiamo noi. Non è che abbia molto carisma, a poca luce, insomma, su questo qua. A poca luce, e poi per di più è una squadra bella assortita, poi c'è un pasticcio fortissimo. Quando arriva un nuovo presidente, solitamente mette un nuovo allenatore, è tutto così, tutto quanto grigio, pasticciato. Beh, a parte questo, però tutto bene, insomma, no, devi prendere la frusta, Pardo. Ma sì, ma Cruciani, che Staccani poi ha chiesto scusa, ci mancherebbe altro. Insomma, quel poveraccio che ha fatto lo striscione di Mancini. Poveraccio in senso buono. Ma poi ognuno fa lo striscione che gli pare, no? Ma ci mancherebbe altro. Cioè, anche non era, vuole non fare... era graficamente, diciamo, il top, però non è che stiamo qua. Foglio a tre. Era un foglio a tre, Mancini, ma scritto sì, ma con i puntini sulla I, non era stampatello, ho capito. Vabbè, che problema c'è? Cioè, ognuno ha le sue idee, cioè, anzi, Mancini potrebbe essere un'idea. Beh, insomma, penso, un'idea, penso non, che all'Inter non, ci abbiano pensato adesso, sinceramente. Sì. Poi senz'altro più di Ausilio, illuminata di Zenga come prospettiva, a mio parere. Poi Ausilio. Io pensavo anche agli interisti, più costosa però, sì, molto più costosa. Sentivo Ausilio dire ci vorrebbero 11 Mazzarri in campo. Immaginavo i tifosi dell'Inter, 11 Mazzarri in campo, credo sia l'incubo peggiore. Chissà che maglia avrebbe l'Unione Milanese. La maglia della Sampa è una sintesi di quella delle due squadre a cui prese origine. I cugini genuani li chiamano i ciclisti, scrive un ascoltatore. Roberto, provincia di Olbia, buongiorno. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Ancora la poesia. È un gioco antico, con moderni miti, tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba gli squilli. E va bene, ognuno, Piero, ognuno sentiamo, lo ma sentiamo cosa? Divincolino, no, ma ti prego. Il divino Baggio, un dubbio vassale, ma no, sono certo, sì, è lui il mio amore, è proprio Roberto, mm-hmm, sfiora il terreno, incrocia le dita, si sogna di croce per la partita, di sole e di luna, fulgido raggio, illumina il gioco, infonte coraggio. Grazie. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. Cioè, dell'impegno, dell'applicazione e della rima. Roberto, anche se sulla rima, posso, se no c'è un equivoco da sempre. Posso, Roberto? Qual è? No, che uno dice, non è che basta mettere in rima le parole per essere poetici. La poesia è un concetto astratto, no? Come insegnano i grandi, no? Letterati. Roberto, provincia di Olbia, buongiorno. Dica. Roberto, pronto? Pronto? Sì. Eccoci. Salve, vuole dire, vuole declamare anche lei dei versi? Chiamavo perché, insomma, per esprimere un concetto. Io sono tifoso del Milan, ovviamente. E niente, volevo dire che quest'anno veramente va male. Per quanto riguarda il discorso giocatori, non per quanto riguarda il discorso spirito. L'anno scorso mancava lo spirito oltre ai giocatori. Quest'anno spero che chi è a capo del Milan, non si capisce neanche chi bene, capisca che non servono, possono cambiare mille allenatori, ma alla fine, come mi diceva mio nonno, l'asino non può diventare cavallo, quindi certo, alla fine servono i giocatori, invece, per avere risultati. Come diceva, l'ho già citato questo molte volte, invece, no, il mio pensiero, Roberto, è questo, come dicevo, ho citato molte volte, il famoso Bibitaro che stava di fronte al Palalido quando ero ragazzino, sì, andavo a vedere la partita di basket e andavi lì che gli chiedevi, scusa, mi dai una lattina di Fanta? E lui ti rispondeva, gever la moneda. Cioè, traduco per noi traduci, terroni, bravo, noi terroni romani e annessi, cioè anche devi avere i soldi, no, per avere i giocatori, per avere la moneta, per avere la fanta, per avere la moneta, ma anche per avere i giocatori che avere la moneta. Sì, incidentalmente poi c'è che questo Inzaghi nelle prime 10 partite sta facendo peggio di Seedorf nelle sue 19 sulla panchina del Milan, sì. Nemmeno per poco, cioè, questo è vero, però sono d'accordo con l'ascoltatore, non mi sembra che sia un Milan più forte o più debole. Mi sembra un Milan uguale rispetto a quello, no, che è uguale, però sono d'accordo con l'ascoltatore, secondo me c'è più spirito, che poi è un concetto molto astratto e quindi poi probabilmente conta zero. Mi sembra quel discorso che facevo prima, che in qualche modo riguarda anche l'Inter, se l'Inter non avesse una contestazione interna che secondo me destabilizza tutto, è un Mazzarri che fa fatica a gestirla, però dal punto di vista tecnico secondo me l'Inter ha fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso, ha tolto degli equivoci, ha superato una fase, chiaramente è una squadra povera, così come è povero il Milan, però secondo me è un filo meglio dell'anno scorso stanno. Poi è chiaro che il vento ti può spazzare via, perché sono due società abituate a vincere e quindi non vincendo si crea un meccanismo tale che ti massacra. La drammatica verità è che il calcio italiano ha bisogno di una Milano forte, così come il calcio italiano sentiva terribilmente la mancanza di una Juventus non competitiva, con tutto anche sì, con le polemiche. Il calcio italiano ha bisogno di tutti, adesso sinceramente è chiaro che c'è bisogno di tutto, insomma il calcio italiano per tanti anni non ha avuto una Roma e una Lazio protagoniste e ce n'era bisogno, non ha avuto il Napoli protagonista e ce n'era bisogno, cioè dal punto di vista sociale secondo me è chiaro che è bello che le grandi città vengano tutte rappresentate e le grandi tifoserie vengano tutte rappresentate. In assoluto, sì, è un po' un peccato per Milano, però voglio dire, il rovescio della medaglia è la storia bellissima di Genova di queste ore, per cui insomma, sul discorso c'è bisogno di questo, c'è bisogno dell'altro, c'è bisogno di tutto. Io mi è venuta una voglia un po' prustiana, tipo Madeleine, dell'aranciata amara, ti ricordi? Sì. Era stupenda, non ci faccio ancora, certo. La fanno ancora? Mai bevuta. Non risulta. Non mi piaceva. E il chinotto invece? Il chinotto lo fanno ancora, conferma. No, chinotto lo so, c'è. Lo so, io sono uno dei grandi consumatori. Buono, la spuma c'è. Se mi trasferisco all'estero si diminuisce il 40% il consumo del chinotto in Italia. Allora, un avviso per Piantanida. Dica. Emiliano da Bologna scrive, se sento di nuovo quella poesia invado la Polonia. Alberto da Genova, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Ancora folla ai cancelli e spalti gremiti per un gioco antico con moderni miti. Alberto da Genova, bella però, ecco non avrò da cantare niente, però si apri i cancelli, si apri i cancelli. Alberto da Genova, sono qua ora dico, sono Sandoriano Gaudente, un ciclista, insomma oggi lo sentite che ci avete citato, sono molto contento, sono qua. Dunque, se gli allenatori contano e Mihajlovic conta a Sampdoria, io non capisco per quale benedetta ragione si seguono sempre allenatori che al massimo hanno allenato le giovanili o i giovanissimi, addirittura delle squadre come Inzaghi, e non si rende conto che questa logica del risparmio poi ci dà dei professionisti che non hanno un minimo di gavetta. Cioè Mihajlovic le sue facciate l'ha prese prima di arrivare a Sampdoria, mi sembra che insomma prendo un allenatore che ha soltanto allenato dei ragazzini, per quanto abbia avuto una buona esperienza sul campo, non sia la logica giusta. Però c'è la, sono d'accordo, però c'è la speranza, innanzitutto c'è stato il guardiolismo, cioè c'è stato questa moda irrefrenabile di un grandissimo calciatore che conosceva molto bene l'ambiente, che veniva ad allenarsi, a fare allenatore da predestinato e ha vinto tutto, e questa cosa poi è stata seguita, c'è stata l'iniziativa Ferrara, c'è stato, ogni però, volta cioè, funziona è chiaro, infatti ogni volta non funziona, però questo è stato secondo me dal punto di vista culturale una delle cose che ha portato a queste scelte. E poi c'è un discorso anche economico, cioè comunque c'hai un uomo come Inzaghi che allena la primavera, del quale ti fidi, nel quale intravedi delle qualità e provi a farlo crescere, cioè ci può stare in un momento come questo. 2 milioni e mezzo sta pagando Seedorf quest'anno, appunto, quindi... se avesse avuto il budget per dare 8 milioni l'anno a Ancelotti o a Van Gaal, magari l'avrebbe preso, ma quindi siccome quel budget non c'è, in questo momento il Milan è il club che paga di più il suo staff tecnico, certo, in tutta la Serie A, certo, perché se tu metti insieme Seedorf e Inzaghi superi, credo, di poco, ma superi Mazzarri, superi lì, all'Inter. Benitez e superi gli altri. Tra un po' arriva all'Inter, che licenzia Mazzarri, deve prendere una. Ma Ausilio l'ha confermato, l'ha detto il presidente, l'ha detto Ausilio, dai. Va bene, staremo a vedere. Tutti convocati. Aranciata Mare Campari, il massimo, scrive Marco D'Alissone. Ci frega un tubo di una Milano forte, Ugo da Napoli. Invece ho una mail, quello che mi, di Massimo Magnani. Quello che mi dispiace è che da quando non c'è più Milano la Juve fa quello che vuole. Poi c'è chi fa una domanda a Pardo: ma la poesia è materia liquida? Domanda Enrico. Boh, no, siccome non tanto. Dovresti vedere la faccia, ragazzi. Sì, a volte è liquida se bevi. Bevi mentre la leggi, allora lì. Fabio da Palermo, buongiorno. Ciao a tutti. Ma ciao. Se vi mando una maglia di Dybala, gliela fate indossare a Salvini. Dai, non la permettete. Non la deve prendere così. Io volevo dire una cosa. Guarda, io Salvini l'ho visto, tra l'altro verrà, credo, attività che ha preso, l'ho visto una sera a Viterbo con la felpa di Viterbo, quindi secondo me poi indossa tutto lui. No, non lo so, però voglio dire, ci sta, insomma, che metta anche la maglia di Palermo o di Dybala, del signor Dybala, che vale due lire, ha detto Zamparini. Signor Zampa, ma quanto vale Dybala adesso? Ma non ci sto pensando, però sicuramente vale quanto Pastore. Cioè, Pastore quanto l'ha venduto? 42 milioni. 42 milioni per Dybala vorrebbe? Sì, se no rimane qui. Ci vuole un arabo, ci vuole il Nasser, quello dell'Altani, quello del Paris Saint-Germain. Quelli sono boccaloni, comprano con chiunque. Ma quelli estraggono 1 miliardo al giorno di petrolio, come chi ne frega. Certo, quindi la sintesi Zamparini. No, però forse Cavani secondo me poteva essere venduto meglio, e questo secondo me è il rimpianto che ha in testa, perché Napoli fece un grande colpo a 16 milioni. Ma c'è ancora l'ascoltatore? Non lo so. Qui volevo dire una cosa. Prego. A proposito della partita, insomma, di Palermo Milan. Ma voi siete così convinti che Inzaghi sia questo fenomeno come allenatore? Perché sinceramente, vedendo la partita, a parte il Palermo, abbiamo fatto giocare a Maresca, che ha fatto praticamente quello che voleva. Qualsiasi altro allenatore, mi sembra un po' che pensa di giocare da solo. Qualsiasi altro allenatore avrebbe preso a De Jong, gliel'avrebbe messo addosso e gli avrebbe detto: seguilo pure se va in bagno a fare i suoi bisogni, non gli fare toccare più un pallone. Maresca, mi sembra tanto. No, magari va bene io Zidane, non sono sicuro, però, che ha marcato fatto quello che volevano. E ho visto anche delle altre partite del Milan affrontate così, forse con un po' troppo, ecco, pensando di giocare solamente loro. No, il Milan ha un atteggiamento da squadra alta, no? Da squadra che si sente forte. E quando perde, quando sbaglia le partite, le sbaglia anche per questo motivo. Sono d'accordo con lei, insomma. L'altro giorno l'ha dominata Iachini, ma non ci sono dubbi, insomma. L'altro giorno il Palermo, il primo tempo, ha dominato. Ma il problema è stata la marcatura dell'uomo di Maresca? Ma no, ma il problema è stato che il Palermo ha giocato l'altro giorno nelle ripartenze in maniera meravigliosa. A un certo punto, poi, dopo il 2-0, sul Milan è sceso un tale livello di torpore che il Palermo poteva farne altri due nel primo tempo. Primo tempo è stato proprio knockout assoluto, Milan al tappeto. Nella ripresa si è vista un po' di famosa supremazia territoriale, come dicevano, esatto, sterile, e che non ha portato a nulla. Quindi, voglio dire, il combinato della partita è un dominio e una proprio chapeau al Palermo, che ha stravinto, strameritato, non c'è discussione. E su Inzaghi fenomeno non abbiamo certezze. E torniamo al discorso di partenza. Non ha mai detto nessuno che no, fenomeno, esatto, no? Cioè, anzi, abbiamo detto, ma non lo sa neanche lui, secondo me. Non lo sapeva Guardiola prima di cominciare a vincere, non lo sapeva Ancelotti. Bisogna inevitabilmente aspettare. Non lo sa neanche Luis Enrique. Non lo sa neanche Luis Enrique, che a Barcellona. Io qualche dubbio ce l'ho su Luis Enrique. Anch'io ne ho più di uno. Claudio, provincia di Trento, buongiorno. Sì, salve. Io chiamo sempre per parlare del Milan e Zaghi. Innanzitutto volevo farvi complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Grazie. E secondo me al Milan e Zaghi manca qualcuno a centrocampo con i piedi buoni. Va bene De Jong, che fa da filtro la difesa, ma poi tutto il gioco del Milan è la palla lanciata più avanti possibile, in maniera che i tre davanti facciano, inventino qualcosa. E poi la prima volta che si perde, gli altri sono già in porta. Sono d'accordo, vi hanno detto molte volte, almeno io sono d'accordo. Milan ha un centrocampo in questo momento improponibile dal punto di vista qualitativo, e ce l'ha dall'inizio dell'anno. L'unico giocatore a qualità rientrerà a gennaio. facciamo sì, anche Paolo della provincia di Olbia. Probabilmente si aspettavano che rientrasse un po' prima, c'è stata una valutazione, poi questi infortuni sono difficili da recuperare e ha perso qualcosa, però secondo me questo era anche un punto di forza. Il primo Milan di questa stagione aveva questa idea, poi palla in verticale immediatamente sulle due fasce e si andava via in ripartenza, ha fatto così a Parma, ha fatto così in casa con la Lazio, però se poi pretendi di fare anche la partita giocando con quella qualità lì, i problemi vengono fuori e poi sono problemi di struttura, forse di allenatore, sono tanti problemi che si mettono insieme. Paolo, provincia di Olbia, abbiamo due minuti e poi andiamo in GR Time. Pronto? Dica. Pronto? Dica. Sì. Allora, quattro domande velocissime. La prima, quattro mega poco. Solo quattro. Via, velocissime. La prima è a Pardo. Sì. Nel senso, ieri ho visto Tiki Taka, sì. un servizio sul Milan. Non vi sembra, ma parlo del Milan e di qualsiasi altre squadra, perché sì. anche la Juve. Sì, ma il tempo scorre. Vada con la domanda. Perfetto. Perché non pensiamo che anche noi come stampa, voi come stampa, siete un po' troppo veloci a giudicare dopo una sconfitta o pareggio la crisi di una squadra. Ma siamo tutti veloci, questa è l'epoca della velocità e comunque poi che facciamo? Non va bene, c'hai l'età per ricordare che cos'era la stampa giornalistica sportiva 30 anni fa. Cioè, aveva 10 non anni giudicava... non giudicava, c'era la violenza ma distanza. Ieri ho sentito dire che Onda è diventato un giocatore con delle amnesie lunghissime, ma fino a una settimana fa l'avevamo celebrato. Seconda domanda, l'avevo già fatta qualche anno fa ma fu bocciata da Genta. Sentiamo. El Shaarawy, se non usa il sinistro non può diventare mai nessuno. E terza domanda, sì. Crisi del calcio italiano nasce a Coverciano, perché a Coverciano allenano e allevano dei contromossisti. Sì. Basta, non fanno calcio. La quarta? La quarta me la sono scordata. Vabbè, prendiamo appunti e ne rispondiamo subito. Peccato dopo. Perché insomma era la migliore la quarta. No, dice. Scherzo. No, erano belle anche le altre tre, però sulla velocità è una caratteristica dei tempi, è l'epoca che è veloce. Insomma, nei bar ieri mattina non è che si diceva altro. Insomma, il Milan è stato deludente l'altro giorno e giudichiamo quello che è. Poi noi ricordiamo che i conti si faranno alla fine, che ci vuole giudizio, tutte queste contromossisti cose. Sui contromossisti di Coverciano magari dopo, e su El Shaarawy che non usa il sinistro. El Shaarawy secondo me deve ricominciare a giocare con continuità e poi vediamo dove arriva. Bet Corner GR, poi torniamo. Quote e pronostici. Torna in campo la Champions League questa sera ed è subito gara decisiva per la Juventus di Allegri, di scena allo Stadium alle 20.45 contro l'Olympiacos. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo dei bianconeri, è quotato 1.30, l'X è a 5, il 2 invece è quotato 12. Interessanti anche le quote dell'under e dell'over 2.5, quotate 1.85 entrambe. Sempre nel girone dei bianconeri in Svezia c'è Malmo contro Atletico Madrid. L'1, il successo degli svedesi, è quotato 10, l'X è a 5, il 2 invece con la vittoria dei ragazzi di Simeone è quotata 1.33. Interessante per questa partita la quota del gol, quotato 2.20, il no gol invece è quotato 1.60. Al Bernabeu però il piatto forte della serata con la sfida tra Real Madrid e Liverpool, l'1, il successo dei madrileni è quotato 1.22, l'X è a 6.50, il 2 invece con il successo degli inglesi di Balotelli è quotato 12. Sfida interessante quella del Westfalen Stadium di Dortmund tra Borussia e Galatasaray con l'1 quotato 1.22, l'X 6.50, il 2 quotato 12. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci domani. Tutti convocati. Allora, fallito clamorosamente nel primo tempo l'esperimento del promo per la domenica in diretta. L'abbiamo fatto però adesso. Abbiamo grande fatto, qualità, ho anche cantato. Notte alta sono. Invece, scusa, c'è il collega Capuano che vuole gettare giustamente la luce e l'attenzione sul caso della spuma, la lobby della spuma. Io sono arrivato a 40 anni senza aver mai bevuto la spuma. Immagino sia una cosa molto nordica, no? La spuma. Sì. È una roba che io ho bevuto da bambino nell'oratorio e adesso che ci torno con i figli ho scoperto che ancora domina il mercato degli oratori. La spuma. E tu sei vergine? Sì, per quanto riguarda la spuma, assolutamente sì. Che cosa. Vabbè, senti, proviamo. Ognuno ha la spuma che si merita, ma anche il Capuano che si merita. Sentiamo il cugino di Capuano, questo qui. Il calcio è un'altra cosa, probabilmente qualcuno non l'ha capito, lo dovrà capire, perché qui si va al manicomio, si lavora dalla mattina alla sera. Prendere gol in maniera diversa va bene, ma non in quel modo, quando si poteva fare di tutto, due contro uno, voglio puntare l'esterno, ma via, a cagare. Felicia Pontini. Ma certo, io glielo dico in faccia, ok? Deve andare a lavare i panni un giocatore che fa una cosa del genere al 90esimo, perché non è la prima volta. Io a Montini gli ho sempre, come a qualsiasi giocatore, giustificato sempre tutto. Sbaglio un gol, non dico nulla, anche domenica, per l'amor di Dio, però perdere questa palla con sufficienza, non puoi giocare a calcio, devi andare a giocare nel Milan, nel Barcellona, non nella rete. Prendere gol in superiorità numerica al 90esimo è vergognoso. Quindi non lo accetto, avrei perso in maniera diversa, non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle, non le checche in mezzo a campo. L'ha presa bene, tu pensa se allenava Zapata Ezio domenica. Capuano. Che c'entra con Zapata? Ma siete parenti? Sì, è cugino mio, sì. È cugino di secondo o terzo grado, adesso non lo so. Ogni tanto l'ho incrociato in qualche radio napoletana. Possiamo definirlo un progressista, no? Lui è un idolo, è un idolo assoluto. Pensa se aveva Zapata, a proposito di... Vabbè. Claudio Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti, grazie per la convocazione. Io sono un interista e purtroppo ho appena sentito le dichiarazioni che ha fatto Ausilio, sì. Mamma mia, non ci posso credere a quello che ho sentito. Tra l'altro Mazzarri ce lo teniamo qua fino a luglio del 2015. No, non ci posso credere. Anche ragazzi. 2016, No, allora, l'hai presa bene, insomma. A Milano c'è una frase che racchiude il tutto, non posso dirla perché chiaramente per radio, ma comincia per ma vada via, non posso crederci. A mio avviso all'Inter converrebbe cambiare subito allenatore, ieri, deve cambiarlo immediatamente per tentare di fare qualcosa, perché Mazzarri non sa più che pesci prendere, non ce n'è. Prendendo chi? Il problema è proprio quello. Io fortunatamente sono solo un tifoso, ho queste. Però bisogna anche fare delle idee costruttive. Prendendo chi? Secondo lei? Io prenderei Mancini. Costa. Quanto circa, Pier? Una roba tipo 4 e mezzo, no? Penso che 4 milioni di dagli. Sì, Mancini più Mazzarri hai preso Ancelotti. Più o meno come allenatore, oppure hai preso Capello, ammesso che ma lo paghi nella Russia. Sconto, ti fa 3 e mezzo più bonus, però insomma. A me sembra che non si fa operazione di verità se non si spiega agli interisti che Mazzarri resta a prescindere, credo, a meno veramente di tracolli assoluti. E poi se lo vogliono mandare via a giugno ci dovrà essere comunque una trattativa. L'Inter dovrà essere sicura che Mazzarri trovi un'altra panchina, perché Mazzarri è sotto contratto fino al 2016 e l'Inter in questo momento non si può permettere null'altro. E poi magari sarebbe anche il caso, secondo me, in maniera un attimino più ragionata, di parlare anche di quelle che sono le spiegazioni che Mazzarri dà del momento difficile dell'Inter. Perché poi se l'Inter ha 3 esterni fortunati su 4, sì. Per un allenatore che fa il 3-5-2, vogliamo dire che questo è qualcosa che quando giochi ogni 3 giorni può condizionare importante. Queste fasi di campionato ha delle motivazioni. Io continuo a difendere Mazzarri, che sta facendo degli errori. Mazzarri che cerca mille alibi sugli arbitraggi, eccetera. Questo Mazzarri non sta neanche provando a difendersi, invece, su argomenti su cui avrebbe ragione di difendersi. Ragazzi, prima di lasciarvi andare, Mazzarri e Inzaghi potrebbero magari trovare buona compagnia questa sera tardi, se Allegri non dovesse battere l'Olimpiaco. Ma non mandano via nessuno, è chiaro, però sul banco stasera, degli imputati, diciamo che secondo me la Juve non è fortunata per una griglia. Cosa, nel senso che oggi deve vincere, nel senso che per come si è messo il girone 6-6-3-3, se oggi dovesse per esempio pareggiare, ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, a quel punto all'Olympiacos basterebbe vincere in casa contro il Malmo praticamente per passare il turno. Quindi stasera è veramente una finale, però ti dico, c'è lo Juventus Stadium che secondo me ha un impatto fortissimo, e già nella partita di Atene si è vista una squadra che con un altro portiere, poi perché il portiere fa parte del gioco, quello che volete, ma insomma nel secondo tempo ha preso a pallate i greci, nel primo tempo non ha giocato a pallone, quindi ecco, oggi la speranza è che la Juve possa partire forte dai primi minuti e non regali metà partita come buona successo. Idea, buona idea quella di Morata. Buona idea, in questo momento sta meglio, sta meglio, è più caldo, è più forte, è più... Sì, in una partita così importante, però se hai cavalcato Llorente fin qui... Sì, sì, lo so, però è vero tutto il contrario di tutto. Cioè è vero pure che in una partita importante così deve giocare chi sta meglio. Vabbè. E sembra che stia meglio Morata. Questa sera si piglia, questa sera è la notte di Allegri, perché è il suo bivio. Dovesse andare male questa sera, non, insomma, da domani saremmo qui a parlare di un ragionamento diverso sulla Juventus, e lo fa con la sua Juve, forse per la prima volta dall'inizio della stagione, non volendolo fare perché è costretto dagli infortuni, però pare che giochi con la difesa a 4, con il trequartista dietro le due punte. Per la prima volta vediamo una Juventus davvero dall'inizio diversa dalla Juventus di Conte, nella notte più importante per Allegri. Vediamo una squadra più europea, diciamo. Sì, è una squadra che ha vinto 2 partite delle ultime 9 in Champions, quindi attenzione a dare per scontato che oggi tu possa asfaltare l'Olimpico. Servirebbe il doppio vantaggio per mettersi davvero al sicuro in classifica, non basta l'1-0. Secondo me non è così semplice come immaginare. Non è semplice, però credo che la Juve ce la possa fare. Cioè, io poi credo alla fine che è inutile stare a girarci attorno. Se poi, come è successo l'anno scorso, la Juve sarà sfigata, secondo me a Istanbul è stata penalizzata al campo, lo ripeterò tutte le volte perché ero lì ed è stata sicuramente penalizzata al campo. Detto questo, poi se non riesci a passare il turno, l'anno scorso la Juve ha vinto una partita su 6, certo, è chiaro, certo, che se vinci una partita su 6 non passi il turno. Va bene ragazzi, ciao spot per domenica alle 17, alle 19, no, rifacciamolo bene in diretta, l'altra è tutto bene, rifacciamo. Dai, tutte le domeniche alle 17. Sai che cosa c'è? C'è che alla fine delle partite noi ci troviamo qui per parlare, per farvi sentire le voci, per darvi i risultati, per ascoltare gli amici da casa, per rompere i coglioni. Ecco, questo non lo possiamo dire, è poco radiofonico, però abbiamo preso lo stile sobrio del signor Cruciani, e quindi alle 17 tutte le domeniche tutti convocati weekend. Ma meraviglioso, siamo riusciti a farlo. Ora abbiamo registrato, non puoi dire. Allora facciamo beep e dico: anche per rompere un po' le scatole, come direbbe il signor Mughini. Che birbantelli. Grazie ragazzi. Dipende dalla sfida di domani. Come ho detto, è la prima partita fondamentale per la nostra stagione, e giochiamo contro un avversario che non sarà sicuramente facile. Ha battuto in casa sia noi che l'Atletico Madrid, però domani saremo allo Juventus Stadium, sappiamo di avere il nostro pubblico che ci darà una grande mano, e da parte nostra dobbiamo cercare di continuare come abbiamo fatto. Abbiamo la seconda miglior difesa d'Europa, contando soprattutto i pochi uomini che abbiamo dietro, che stanno giocando tutte le partite e stanno facendo un grande lavoro. Bisogna migliorare, come ha detto il mister, che ci sono alcune partite dove se non si riesce a vincere almeno bisogna portare a casa il pareggio, e soprattutto in Champions un punto può fare veramente la differenza per passare il turno. Bisogna rimanere sereni e non farsi travolgere da troppo peso a quello che dall'esterno viene detto, che la Juventus è il complesso dell'Europa. Credo che la Juventus abbia giocato molte finali e ne ha vinte poche rispetto a quelle che ha giocato, e domani è un banco di prova importante contro una squadra che gioca un buon calcio, contro una squadra che ha battuto l'Atletico Madrid e la Juventus nelle 2 partite in casa, quindi bisognerà affrontarla con molta concentrazione, bisognerà giocare bene e soprattutto dare grande intensità alla partita. Queste le voci della vigilia juventina. Abbiamo sentito Marchisio e poi Allegri. Saluto Max Nerozzi della Stampa. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, ne parlavamo prima con Pardo e con Capuano. Cambiare la Juventus, il disegno e anche gli interpreti, nella notte più importante, secondo te è un segno di forza o di debolezza? O di paura? Più che altro è un obbligo. No, nel senso che se Ogbonna fosse stato bene, stasera Juve giocava 3-5-2, ma proprio senza ombra di dubbio. Se Allegri, come pare dall'ultimo con audio di stamattina, giocherà 4-3-1-2, insomma 4-3 fantasia come faceva il Milan, sarà soltanto per motivi fisici, che sono gli stessi che hanno pesantemente influenzato questo inizio campionato. Non è per dare un alibi a Allegri, che lui non gli ha mai chiesto, però un mese e mezzo fuori Pirlo e soprattutto sempre fuori Barzagli, che è il miglior difensore della Juve e dell'Italia, e anche come per Conte, non è stata la stessa cosa. Sì, poi è chiaro, ci sono altri problemi. Tevez, dopo aver fatto di tutto, è fatalmente stanco. Non sono così convinto, su questo non sono d'accordissimo con Pardo, che insomma, dopo aver cavalcato fino a questo punto la coppia di Llorente Tevez, si lanci Morata dal primo minuto, perché secondo me quando un allenatore va con in una partita così importante va con i giocatori che si dice che lo hanno portato, in realtà non l'hanno ancora portato da nessuna parte, però con i giocatori che ha scelto all'inizio. Guarda, azzardo un'interpretazione, secondo me non è neanche tanto lontana dalla realtà. Nei programmi di Allegri c'era di far giocare Llorente, tant'è che a Empoli Llorente non gioca. Dopodiché Morata ha fatto tanto bene, ieri era su in testa alle primarie dei tifosi per una maglia titolare, perché come tu ben sai i tifosi si innamorano, si ingolosiscono dei gol, e non voglio dire che anche sia stato influenzato, però forse anche lui ha valutato che Morata fosse più in palla e si giocherà con lui. Dici bene tu, quando Llorente si è dimostrato più affidabile, cioè sul fatturato della squadra, certo, come nel basket quando uno è nel quintetto che ha un saldo positivo, e quando ha giocato Llorente il signor Tevez ha fatto 6 gol, con Morata non ha mai segnato. Bravissimo, è quello che abbiamo detto molte volte, cioè il fatturato di Llorente è bassissimo, ha segnato solo un gol, però è chiaro che Tevez con lui ha altri spazi, si muove in maniera diversa, è anche più abituato, eccetera eccetera. Senti, mani dove volete, ma se stasera non funziona che succede a Torino? Beh, succede che la Juve rischia di fallire più bersaglio stagionale, perché su questo non ci sono scuse. Allegri al primo giorno di scuola juventino disse che bisognava migliorare in Champions, dopodiché ha definito ancora di più l'obiettivo e insieme di lui anche la dirigenza, entrare nelle prime 8, e se stasera non vinci diventa molto molto difficile e molto complicata la stagione, perché insomma Allegri è stato accolto soprattutto abbastanza bene dal pubblico, ma anche per i risultati in campionato. Non vorrei che con questa ennesima delusione europea si infinasse tutta l'operazione fin da novembre. Rischierebbe qualcosa, non credo. No, questo guarda, lo escludo, perché no, ma sai, guarda, è il tempo degli allenatori in discussione, Mazzarri, perfino Inzaghi. No, è vero, però guarda, Agnelli penso che insegnò a tenere la barra dritta tenendo Del Neri fino alla fine in un'annata abbastanza disastrosa, che però mise un po' di basi per quello che poi si vede con Conte, quindi insomma questo tende a escludere. Dopodiché è chiaro che se perdi 20 partite di trofila è un po' difficile. Ma sai, comunque questa sera tocca ai giocatori di non voglio usare le frasi del capuano di qui sopra, perché sono semplicemente idiozie. Stasera invece servono i giocatori di classe, la Juventus li ha, quindi è chiaro che la palla va a Pogba, va a Vidal, va a Pirlo, va a Tevez, va a questa gente qui. Ma no, hai ragione, anche perché noi l'altro giorno ricordavamo il contrattone di Pogba. Alla fine dello sport professionistico i soldi dovrebbero essere proporzionati a quello che tu dai alla squadra, un giusto riconoscimento. E quindi i giocatori devono dare qualcosa di più anche per questo. Prendo ad esempio Pogba, perché tranne la mezz'ora fantastica a Sassuolo con gol, quest'anno non ha mai spostato in una partita. Vidal idem, Pirlo ha avuto uno sparo a Empoli, però è chiaro che in notti così bisogna fare una differenza. Certamente, questa deve essere la notte in cui capiamo qualcosa di più della Juventus di Allegri, non ho dubbi su questo. Cioè, vedremo con tutti i limiti fisici, siamo a recuperare l'ultimo momento, c'è gente che non sta bene, eccetera. Però questa sera è davvero una notte in cui dentro fuori e vedi chi c'è, chi non c'è, allenatore compreso, secondo me, Max. Sì, hai ragione, anche perché insomma è quando conta che si prova a temperatura le squadre, e Allegri alla fine è arrivato come sappiamo tutti, però ha avuto tempo per lavorare, non come voleva lui, per i fortuni che dicevamo prima, però è chiaro che insomma la squadra qualcosina da lui sta prendendo, ed è una prova della verità. Dopodiché, non per accampare o fare metafore con la neve di Istanbul, qui a Torino sta diluviando da stamattina. Lo Juventus Stadium ha già dato prove di affidabilità assoluta, ci sono i teloni, però è chiaro che insomma un metro così è meglio per fare barricate contropiede che non per fare la partita, ma insomma è secondario. Non è la notte ideale forse, bah, vediamo. Grazie Max. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Max Nerozzi da Stampa. 800240024, numero verde. Maurizio da Torino. Eccolo qua. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Auguri per la trasmissione. Grazie. E un saluto a Pardo. Che ha appena dato via. Volevo parlare del Milan, sergente. Senta, sì. Io dico una cosa, no? Ma a prescindere Inzaghi, per carità, niente da dire. Però noi abbiamo una difesa che logicamente non avendo più Nesta e Thiago Silva, se abbiamo una difesa un po' così così, però secondo me non è neanche molto protetta questa difesa qua, perché becchiamo un sacco di gol. Perché non giochiamo a rombo? Io le dico solamente Mondolivo davanti alla difesa quanto entrerà, De Jong e Bonaventura ai fianchi, e con Onda che nasce trequartista, è un trequartista. Però Maurizio, no, però, però allora a parte che a parte che no, aspetti, a parte che Mondolivo ancora non è disponibile e lo sarà tra un po', se questa difesa non è protetta da una squadra che sostanzialmente gioca con tre mediani, lei si può immaginare un centrocampo composto da tre mezze punte e un mediano? Si può immaginare come sarebbe protetta, no? No? Però io penso che sarà per farlo rendere, quando rendeva con Pazzini a fianco, oppure con Torres, perché così secondo me lui è sprecato un po'. Ma io su Esharawi continuo a pensare che a questo giocatore serva giocare, innanzitutto ritrovare il gol, perché 20 mesi senza segnare per una punta, mettiamoci gli infortuni, mettiamoci tutto quello che volete che è successo ad Esharawi, infortuni lunghi, poi rientri magari affrettati, poi di nuovo lunghi stop, poi di nuovo un sali scendi dalla panchina. Io penso che Esharawi abbia bisogno innanzitutto di giocare tanto e con continuità, abbia bisogno per una punta è normale di ritrovare il gol, poi lì davanti la chimica si trova. È evidente che se il Milan gioca con Torres, e gioca con Torres, che è una prima punta, Pazzini non giocherà mai ed Esharawi dovrà adattarsi a ballare intorno a Torres, così come farà dall'altra parte Onda e poi vediamo con Menez. Quindi non vedo molte alternative di formazione per il Milan, sinceramente non vedo tantissime scelte che possa fare Inzaghi, in tutta onestà. Paolo da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. No, io volevo soltanto dire una cosa su Mazzarri. Secondo lei, signor Genta, non sarebbe più logico da parte di Mazzarri dimettersi? Perché avere una società palesemente contro, però che non ti può mandare via per motivi economici, cioè la logica. Ma lei è sicuro che la società. No, aspetti, innanzitutto. No, dimissioni sportiva, attenzione. Certo. No, ma a parte le dimissioni sono qualcosa di raro e Mazzarri non è il tipo da darla su facilmente. Lei è sicuro che la società sia palesemente contro? Secondo, da quello che si è capito, sì, da addirittura Moratti. Moratti ha creato un bel casino diplomatico e poi ha fatto marcia indietro, poi si è tolto dalla. Si è sfilato dal consiglio di amministrazione. Di fatto la società ha dimostrato grande fiducia in Mazzarri e abbiamo sentito anche prima quanto ha detto Ausilio, cioè Mazzarri resta senza se, senza mai, senza forse, che poi rimanga perché ha davvero la fiducia della società oppure che poi rimanga perché all'Inter non hanno voglia, e anche questo credo che non sia un dettaglio secondario in questa stagione dell'Inter, in questo momento dell'Inter non credo sia un dettaglio secondario il fatto che Mazzarri ha un contratto pesante e ancora lungo, che è stato prolungato. Lui non si dimetterà. Se l'Inter dovesse licenziarlo gli dovrebbe dare un sacco di soldi, dovrebbe prendere un altro allenatore e quindi finirebbe per spendere alla voce allenatori una quantità di soldi che non ha programmato di spendere. Credo che questo non sia assolutamente un dettaglio secondario nella faccenda Mazzarri. Torniamo a parlarne dopo la borsa, state lì. Merito non è soltanto la difesa ma di tutta la squadra che ha sempre lavorato bene. Guardiamo anche partite come quella di Madrid, dove a parte voi, la stampa italiana che ha cercato di smontare subito una squadra che in Europa ha fatto fatica, la stampa spagnola ha fatto molti complimenti a noi, alla Juventus, per la partita che abbiamo fatto, una squadra italiana che era da un po' che non si vedeva, soprattutto in Spagna, fare la partita per 90 minuti, dove anche lo stesso Real Madrid in vari scontri contro di loro avevano fatto molta fatica, poi il risultato non era arrivato. Convocati. Quello che pensano i tifosi lo rispetto, c'è una grande distinzione tra l'altro tra la stragrande maggioranza dei tifosi è quella che sostiene che invece Mazzarri debba essere cambiato, Mazzarri non vada bene o addirittura fischiato. Beh, allora, lo stadio no, ma io lo stadio ci sono, però in pochi hanno fatto notare che invece la curva, che invece è fatta di 10.000 persone, sostiene non solo Mazzarri, sostiene tutta la squadra dal primo all'ultimo minuto. Allo stadio mediamente non ci sono gli 80.000 magari di qualche anno fa, però i 30-40.000 ci saranno 1.000 che fischiano. Il problema è che quei 1.000 si sentono. E dunque un Inter pericolante, febbricitante, fa male al calcio italiano. Sì. Però ho l'impressione che per una serie di motivi che tutti voi conoscete, perché c'è un momento di svolta storica, questa febbre dell'Inter durerà a lungo e certo non dipende unicamente da vizi e malefatte, cioè, del povero Mughini, clamorosamente ecumenico. Caro mio amico Mario Boni, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Mughini dice che la febbre dell'Inter durerà a lungo. Ho paura di sì, caro Carlo, paura di sì. Purtroppo non vedo una grande soluzione a tempi brevi, perché sento anch'io, no, i dibattiti. Ma sei d'accordo 11 Mazzarri in campo, come dice Ausilio? Beh, Mazzarri ha grande carattere, no? Sai la battuta, poi la battutaccia che dicono su Mazzarri, che lui che se ha una squadra scarsa arriva quinto, se ha una squadra forte arriva quinto. Sì. Quindi questo è quello che si dice. Io però non darei da... Cioè, bisogna essere sinceri, l'Inter è una squadra piuttosto scarsa, quindi Mazzarri forse ha sbagliato nel scegliere anche gli uomini quest'estate, ha sbagliato forse il modulo, però insomma gli interpreti non sono neanche... Io credo, caro Carlo, che l'errore dell'Inter sia stato quello di non... Come dire, in un momento di grande ristrutturazione, di volontà di tagliare i costi, di puntare su un allenatore che credesse nei giovani. Ecco perché io all'Inter avevo preso Zeman. Perché perlomeno ci divertivamo. Ma non so, se si divertono a Cagliari, ne hanno presi 4 anche ieri, Mario. Lo so, però vedi, l'Inter ha preso 4 a Cagliari, ha vinto a Cesena 1-0 in maniera dove siamo stati tenuti il calco già in 10 contro 11, abbiamo perso 3-0 contro la Fiorentina, insomma l'Inter non è l'Inter questa. Allora io dico, se in un momento così difficile hai bisogno di ristrutturazione, di far giocare i giovani, prendiamo un allenatore che faccia giocare i giovani. Sì. Che Mazzarri non è, perché storicamente non è uno propenso ai giochi della gioventù, insomma. Ma poi scusa Carmi, hai preso un VA, hai Kuzmanovic, io non credo che i giocatori del settore giovanile dell'Inter siano così più scarsi di questi giocatori. Ripeto, in un momento storico, capisco nell'era Moratti quando c'erano tanti soldi e hai preso grandi campioni. In un momento storico italiano, perché anche le altre squadre sono scarse, il Milan è uguale alle altre. Beh, allora io credo che sia questo il momento di utilizzare il proprio settore giovanile. Secondo te sta peggio l'Inter o il Milan? Beh, una bella lotta. Poi io credo che stia peggio l'Inter. Devo dire che secondo me sta peggio l'Inter. A livello di qualitativo mi sembra che il Milan sia messo meglio. Sì. Anche perché tu mi devono spiegare, no? Gli acquisti dell'Inter. Questo Hernanes è veramente forte o mi sembra che sia diventato una pipa gigante in queste ultime giornate? È forte, sì. Cioè, secondo io vedo, ma lo ripeto praticamente tutti i giorni, a costo di essere noioso, Medel, Hernanes, Kovacic insieme non li vedo benissimo. Cioè, secondo me è il momento che Mazzarri faccia delle scelte. Sì, sai come fanno gli allenatori, ma anche nella pallacanestro, ti scegli la pallacanestro i tuoi 5, i tuoi scudieri, nel calcio i tuoi 11, e vai con quelli a fare la guerra contro chiunque, e poi tanto perso per perso. Mazzarri, sai, è allenatore da 11 titolari e 4 riserve, questo è il suo modo di allenare. E secondo me, io ho l'impressione che lui Kovacic ce lo faccia giocare per forza. Vi ricordate l'anno scorso quando ci furono i fischi da Cuba perché non lo faceva giocare? Lui si è obbligato dalla società a farlo giocare, ma a mio avviso lui ne farebbe volentieri a meno, questa è la mia sensazione. Sì, l'altra mia sensazione è che con Palacio, che mi sembra molto consumato, mi sembra molto consumato. E con Icardi che vuole la palla sui piedi, e se non fa gol, come dice Boban, gioca in 10, insomma Osvaldo potrebbe cambiarti qualche cosa. Ecco, Ma Carlo, scusa, ti rubo un attimo la parola, ma come mai l'Inter non corre? Non c'è, cioè tu guardi l'Inter e rimani impressionato, no? Perché dici, beh, questa è una squadra di post infartuati che devono ricevere la palla sui piedi. Ma come mai? Io non ho questa competenza nel gioco del calcio, no? Però io vedo le altre squadre che giocano le coppe, giocano il campionato, l'Inter di Mourinho che aveva giocatori gli stessi che giocavano. Invece l'Inter che gioca, insomma, una competizione non così impegnativa, non corre nessuno. Ecco, questa è una domanda che io faccio agli esperti. Senti Mario, per chiudere, non grande aria su Milano, Milan-Inter, ma perfino l'Armani che perde ad Avellino ieri sera dopo una serie di 22 gare vinte in campionato. Milano è veramente autunno, eh? Beh sì, cadono le foglie dalle piante, cade anche Milano. Strano, me l'aspettavo, sta sentendo in particolar modo la mancanza di Hackett in campionato, perché Hackett ha avuto questo grande inizio e forse anche qualche giocatore che deve un attimo, come dire, trovare la propria dimensione. Però insomma, sono convinto che Milano, al di là di una sconfitta contro un Avellino, attenzione, non sottovalutiamo Avellino, però ecco, Milano è un'altra cosa e sorprende anche a me la sua sconfitta. Grazie Marione, te, Carlo, ti abbraccio, ciao Mario. Vabbè. Boni. Lorenzo Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno, senta. Senta, premettendo che io sono uno juventino, ma non importa. A me sembra che questo sparare sulla Croce Rossa a Mazzarri sia abbastanza fastidioso, nonostante tutto. Sì, lo trovo, anche secondo me. Sa. Ma guardi, perché. No, perché è un capro espiatorio. È un problema. È un capro espiatorio. I tifosi dell'Inter. Come non si rendano conto che non è colpa di Mazzarri qua e là, è colpa della società che è in un caos completo. È una sorta di inizio cantiere, data, e non c'è la fine della fine dei lavori, come succede spesso in Italia. Cioè, quello che mi sorprende è proprio la tifoseria. No, ma i tifosi, allora, ma Lorenzo, i tifosi capiscono qual è la situazione della società e sono anche discretamente preoccupati, no? Perché, chiarezza è stata fatta, però in quelle condizioni là. Sì, chiarezza è stata fatta, ma relativa. Il problema è che io continuo a pensare che davvero ci sia un'ostilità a prioristica nei confronti di Mazzarri. Quindi, cioè, che non è vero quello che dice Ausilio, cioè che è la minoranza del tifo interista che non vuole più questo allenatore, è la stragrande maggioranza. Adesso l'orientamento della curva lo lascerei stare perché non è indicativo. È la stragrande maggioranza dei tifosi dell'Inter che non vuole più Mazzarri, e credo che ci sia in tutto questo un risentimento a prioristico. L'abbiamo ricordato in questi giorni, risalente all'anno scorso, la vicenda Zanetti, una sorta di frattura con questo allenatore che non è neanche bravissimo a farsi voler bene, diciamoci la verità, dei tifosi. Quindi è uno che o vince o ti sta antipatico. Dica. Sì, ma faccio un esempio e poi chiudo e la lascio. Allora, l'esempio che è proprio secondo me il casus belli attuale è la Lazio di Lotito. Allora, Lotito è stato e lo è ancora in minima parte contestato perché l'altro anno e fino a due o tre stagioni fa. Minima neanche tanto, poi finché vinci la contestazione non si sente più, ma minima neanche tanto. Esattamente, allora secondo me il 75% di quelli che lo hanno contestato oggi sono bellamente risaliti sul carro. Non credo, non credo. Sarà il 66, per carità. Non credo perché anche lì c'è qualcosa che va al di là dei risultati. Cioè i risultati sono qualcosa che può tenere buona la maggioranza rumorosa. Perché... Allora, là ci sono delle frange irriducibili, posso anche, non capisco, ma posso anche capire. Però mi sembra dall'ultima vittoria, ho visto le gradinate, ho sentito qualche intervista, mi pare di aver capito che il problema non sia magari rientrato del tutto, però parlano i risultati. Esatto. Allora, tornando all'esempio dell'Inter, è evidente che i risultati non li ha, ma cavolo, ma guarda come sono messi in società. Sì, no, ma il discorso è che Etoir sbaglia, perché avrà altri impegni e altre cose, perché deve essere molto più presente, secondo me, come fanno tutti i bravi presidenti di delle squadre di calcio o di qualsiasi altra attività sportiva. Sì. Perché deve garantire una presenza, deve far vedere al tifoso che non è contento, che nonostante tutto non c'è solo Mazzarri che prende gli improperi o improperi. Sì, ma però Lorenzo, non è che Pallotta stia a Roma tutti i giorni e vada tutti i giorni a trovare una squadra. Questa è una cosa che abbiamo un po' in mente noi italiani, no? Che il presidente, allora il Milan va male, arriva Berlusconi e allora mette delle pezze qua e là e allora tocca a tutti con la bacchetta magica e allora Berlusconi è tornato a occuparsi del Milan, eccetera eccetera eccetera. Non credo sia tutto lì, non credo che la situazione alla Lazio non è una sorpresa per me, l'ho detto molte volte, è chiaro che è in una striscia di risultati clamorosa che l'ha portata giustamente al terzo posto, in questo momento è mediamente la squadra più in forma del campionato, io direi. In questo momento la Lazio è la squadra più in forma del campionato, ma è una squadra molto equilibrata, è una squadra molto solida, è una squadra che è uscita rinforzata dal mercato. Detto questo, lei vedrà che alle prime due sconfitte consecutive ritornerà a farsi sentire la maggioranza che al momento è silenziosa all'Olimpico. 800240024 numero verde, traffico, poi di nuovo qui. La serie di rimpalli e il tocco vincente. La Lazio passa in vantaggio con il gol del capitano Stefano Mauri. Colpo di testa, Klose! Azione spettacolare della Lazio, conclusa da Miro Klose, 2-0. Klose prende la mira e di nuovo doppietta di Miroslav Klose, 3-0. Candreva il cross, secondo palo, segna Ederson e chiude la partita, 4-2. Tutti convocati. Per Balotelli credo che se habla demasiado, tiene que... Es un jugador que tiene calidad, que ha llegado en un equipo que en este momento está sufriendo la baja de jugadores muy importantes como Suárez, que ha marcado muchos goles. Tienes que buscar una otra solución, el entrenador tiene que dar la tecla con nuevos jugadores. Y creo que Balotelli tiene lo mismo problema que tengo los otros jugadores del Liverpool, ¿no? Un bambinone que ancora no ha capito l'importanza del suo ruolo. Che probabilmente lui non si rende conto di quanto influisce dentro una squadra, dentro uno spogliatoio, ma quanto influisce in un ambiente interno. Ha 23 anni, 24 anni quest'anno, quindi sta perdendo tempo. La cosa che mi dispiace è che sta sprecando delle qualità che ha, qualità incredibili, fisiche, anche tecniche, per stupidaggini che poi lo portano a descrivere come ragazzo che non è. Non esattamente lo stesso pensiero quello espresso su Balotelli da Carlo Ancelotti, che stasera se lo ritroverà in casa in Real Madrid Liverpool, e quello espresso da Marco Amelia, che è un pelo più libero di opinione volendo. Balotelli comunque dovrebbe essere titolare questa sera in questa partita che io penso in linea di massima non avrà alcun tipo di storia. Luca da Genova scrive: Inter e Milan sono come la Salerno-Reggio Calabria, lavori infiniti, curve, ostacoli e nessuno paga pedaggio. Mario, provincia di Carbonia Iglesias. Buongiorno Mario. Buongiorno gente, buongiorno. L'unica colpa che ho nella vita è di essere interista. Chi? Questa è la grande colpa. Lei? Io. Ma perché soffro da quando sono nato, cioè 56 anni, sono 56 anni che soffro, da quando nelle gambe di mio padre ho visto il gol di Jair nel 65, quindi tanto tempo. No, la cosa che mi chiedo io è solo una, a parte i giocatori scarsi, e qua non sono io a decidere, neanche lei, ma il problema è che non corrono, quindi qua qualcuno ha sbagliato e qualcuno, quello che ha sbagliato è sicuramente il preparatore atletico che fa comunque capo a Mazzarri. Qua non solo non corro, ma senza correre ci sono 10 infortunati. Sì. La domanda che dobbiamo farci noi interisti, che dobbiamo farci tutti, chi ha sbagliato? Sì. Non corrono. Si può perdere 4-0, si può perdere 4-0 come abbiamo perso 4-1 col Cagliari, ma cioè. Sì, testa, guarda Mario, io credo che comunque in primo luogo forse può essere una frase fatta, però testa e gambe siano strettamente collegate, quindi è chiaro che l'Inter è una squadra sotto pressione, e sotto pressione bene certamente non si lavora. L'Inter ha problemi fisici, sì, noto che tutte quante, salvo appunto la Lazio che sta girando in maniera meravigliosa, ma anche la stessa Juventus sia pericolosamente in flessione di condizione, la stessa Roma la trovo in flessione di condizione, Genoa e Sampdoria stanno volando, questo è un altro discorso, però non mi sembra che la condizione dell'Inter sia poi così diversa ad esempio rispetto a quella delle due che si giocheranno il campionato. Prima cosa, seconda cosa, fosse così mi sorprenderebbe molto, perché il Napoli di Mazzarri per anni, per diverse stagioni, era una squadra che invece faceva della condizione fisica il suo punto di forza e dell'assenza di infortunati il suo punto di forza. Ora sarei anche curioso di scoprire se, come, cosa, quando Mazzarri ha cambiato nel suo modo di lavorare. Non credo moltissimo rispetto a Napoli, cioè quando allenava a Napoli a me che sorprendeva era l'impressionante resistenza all'infortunio dei suoi giocatori, magari ha avuto solo culo, ma non credo sia così per tutte quelle stagioni. Claudio Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Piacere di parlare con lei. Reciproco. Soffre anche lei? No, guardi che non è piaggeria, sono sicuro di quello che dico e lo sento proprio sinceramente. Allora, io sono un tifoso del Milan e purtroppo anch'io sto soffrendo come molti altri. Volevo solo segnalare un particolare. Ho visto, perché mi è capitato, durante una partita degli allievi nazionali, la squadra dell'Inter, e c'erano due terzini che erano due mastini precisi, 16 anni, tra l'altro reclutati qui in Veneto, io sono di Treviso, e andavano veramente alla grande. Io proprio non si li ho osservati, io che ho avuto un po' di esperienza nel passato nelle giovanili come stopper, e non hanno fatto passare mai una volta il loro avversario cioè precisi. Sì. So che uno di questi è stato convocato a fare l'allenamento con la nazionale, perché come si sa c'è il problema di Nagatomo per l'Inter e quindi è un po' un problema da cercare. Io dico, perché non si puntano ancora tutte le squadre italiane per problemi di bilancio e cominciare a fare poi i conti, ma mi sembra però Claudio, ma perché allora, perché in parte credo lo stiano facendo, ma ne abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, stiamo vedendo comunque in questa stagione diversi giocatori giovani, poi non voglio fare una distinzione perché non questo non mi piace, tra italiani e stranieri, stiamo vedendo diversi giocatori giovani. Poi però un conto è giocare campionato primavera, giocare nei campionati giovanili, un altro giocare con i grandi, sono due sport diversi. Detto questo, Mazzarri non è esattamente, lo ripetiamo, non è esattamente l'allenatore che si affida con grande facilità o con grande frequenza ai giocatori giovani. Insomma, detto questo, mi pare che nel complesso giocatori giovani in giro interessanti ne stiamo vedendo, magari non necessariamente all'Inter ma da diverse parti. Inutile fare i nomi, l'elenco, perché si è già fatto nei giorni scorsi e l'hanno già fatto un po' tutti, però qualcosa stiamo vedendo da questo punto di vista. Roberto Brescia, buongiorno. Arriva lui, Roberto, ancora, incredibile. Roberto da Brescia, Baggio. Buongiorno, ecco, io volevo fare una considerazione sul Milan, considerando che ha alcuni reparti che evidenziano in particolare modo la limitatezza professionale, ma non è meglio che Inzaghi cambi il meno possibile? Mi riferisco alla difesa e all'attacco, questo per migliorare notevolmente l'affiatamento tra di loro e quindi l'esecuzione degli schemi che lui poi sicuramente va a dettare. Ma non ha molto da cambiare Inzaghi, Roberto? Cosa cambia? Cosa può cambiare Inzaghi? Però il portiere, alcuni difensori che continuano a farli ruotare. Anche ma anche per questioni di infortuni. Per esempio Alex c'è un po' sì e un po' no, sarebbe titolare fisso ed è probabilmente quello di maggiore qualità che ha. De Sciglio non lo tocca nessuno. Quanto ai portieri, insomma, Diego Lopez ha avuto problemi fisici, quindi detto questo, Inzaghi non ha moltissimo da cambiare, cioè anche volendo non ha moltissimo da cambiare, quindi giustamente va con quelli, perché se vuoi costruire qualcosa in questa fase è giusto anche andare con quelli. Poi c'è qualcuno che gli viene imposto, qualcun altro se lo sceglie da solo, ma non c'è moltissimo da cambiare in quella squadra, non c'è molta profondità. È molto divertente da mettere in un film. La sto aspettando ancora. Inchiostrare il contratto con De Laurentiis. grazie a Franco Piantanida, nostro autore. No, ma inizia la sfida. Ritiro i ringraziamenti a Piantanida, così come a Scaltritti. Ringrazio solo Claudia Schettoni in redazione. Ciao a tutti. Me ne posso andare? C'è no, no, no, non la faccio più, già caldo. Allora, perché non sei passato di categoria? Ho perso la mia macchina. E dopo aver vinto 2 campionati e 7 corsi di fila, ti hanno sbattuto fuori? Non mi hanno sbattuto fuori. Ho rifiutato l'ingaggio. E perché? Stavo segnando il passo. Dove vorresti arrivare? Indianapolis. Ma lì non puoi vincere senza una buona macchina. Non mi chiamo Andretti o Anser. Mentre le macchine di serie sono quasi tutte uguali. Ehi, le macchine di serie non sono fatte in serie. Senti, non volevo offenderti. Dicevo soltanto che le macchine di serie sono costruite per correre alla pari. Così dice il regolamento. A questo punto non dovrei preoccuparmi delle altre macchine. Certo, in quanto che la differenza la fa solo il pilota. Già, costruiscimi una macchina e io ti vinco Daytona.